Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Iaia Forte legge L'Isola di Arturo, di Elsa Morante. Una commozione impetuosa scolorì la faccia della matrigna, trasformando il suo rossore di prima in un rosa febbrile e timido. Poi soggiunse: «Lui è più sfortunato di te. Mio padre è sfortunato.» «Tu sei più fortunato di lui», essa riaffermò scuotendo con lentezza la testa. Automaticamente, quasi senza coscienza, s'era riaccostata a Carmine e, certo per distrarlo dai nostri discorsi empissimi, lo faceva giocare con una fettuccia che s'era tolta dai capelli. «Tu tieni più fortuna di lui», ripeté. «Che tu, chissà quante belle donne potrei avere nella vita tua.» Nel farmi questo pronostico, le tremava un poco il mento, come a una vera ragazzina, e la nativa ingenuità, quasi in sapore, appena acidula della sua voce, riceveva, da lacrime nascoste, una risonanza simile alla musica imperfetta di certi strumenti poveri e infantili. Seguitò, sempre dondolando il capo. «E lui, invece, mica tanto lo vogliono le donne. Lui è troppo naturale, non è politico, non tiene la fantasia di farla figurare alle femmine. Beh, perché a tante femmine mica piace uno che ci sta assieme quel pocherillo e poi se ne scorda, e senza mai nessuna piccola simpatia, di qualche bel complimento, d'altro, come avesse a fare con qualche femmina malamente. Questo fatto, tante femmine si pensano che è brutta figura per loro.» Simili frasi, necessarie per dimostrarmi la sua conclusione, ella se le trasse dal petto con visibile impaccio, fra rossori di goffaggine e di innocenza e forse anche echi, appena percettibili nel suo fiato, di involontari segreti sospiri, ma pure con una gravità di persona molto esperta. E fu con un effetto quasi di divertimento che io riconobbi là, nella sua presente dimostrazione, certi famigerati discorsi di sua madre Violante. «Così, per questo», concluse, «t'ho detto di lui che è più sfortunato, perché esso con le femmine non può ottenere fortuna.» «Ma», io obiettai, «è un uomo molto bello.» «Molto bello. Mica voglio dire che sia brutto, no. Così, così. Poi è vecchio.» «Vecchio? E come non è vecchio? Sai quanti anni tiene? 35 finiti, è entrato nei 36, tiene già le rughe, capelli bianchi.» Ciò lo avevo notato anch'io, ma pure non avevo ancora pensato che mio padre effettivamente era giunto ormai alla vecchiaia. «Così, per questo», ella riprese, «io t'ho pregato di ricordare il rispetto per tuo padre, che oltre all'essergli figlio, tu, con la tua sorte, vicina alla sorte sua, sei come un gran signore di ricchezza, che nella vita tua chissà quante belle donne incontrerai, tu e signorine di lusso e forestiere che ti ameranno, e chissà che bella sposa ti farai.» Inghiottì una due volte. La sua voce si era di nuovo incrinata. Rimasi a guardarla per un momento e quindi proruppi: «Tu sbagli se credi che io mi farò una sposa.» «Artù, perché?» «Tu sbagli. C'è una femmina sola che poteva essere la sposa mia. Lo so io chi è, e io un'altra non la voglio. Io non mi sposerò mai con nessuna.» Essa mi fissò spaurendosi in faccia, come se io le avessi gridato una bestemmia. Ma senza volerlo, il suo sguardo diceva una gratitudine alata, ridente, pure nella incredulità che lo ombrava. Quasi che ella non fosse scontenta, in fondo, se io rimanevo celibe in onore di quella tale donna. Allora tutto il mio amore per lei mi riprese in un grande fuoco di rimpianti, di esigenze e di rivolta. Simili ad una girandola pazza, mi si accesero nella fantasia tutti i bei complimenti che le avrei fatto io se fossi stato suo marito, e i baci, le carezze che le avrei dato, e come avrei dormito ogni notte stretto al suo corpo ignudo per sentire vicino il suo petto anche nel sonno. Thank you. pensieri, già avuti più di una volta e scacciati a fatica durante i precedenti mesi, fin dal giorno famoso che avevo scoperto di amarla, mi girarono nella mente, lo ripeto, come una festa di fuochi. L'impossibilità, che trasformava in dolore simili pensieri di gioia, era un'ingiustizia snaturata che mi struggeva. Ma siccome Nunz stava là davanti a me respirante e carnale, d'un tratto ogni impossibilità mi diventò assurda. E in una prepotenza di felicità, corsi di là dal grande letto verso di lei e dissi: «Io ti amo!» Era la prima volta nella vita che dicevo questa parola, e mi pareva che a sentirmela dire essa dovesse provare la stessa commozione mia a dirla. Invece, la solita negazione fantastica, che in quel momento mi apparve odiosa più di ogni vile superstizione, le stravolse il viso. Gridò: «No, Artù, non bisogna fare il male!» E allora io, con la rabbia di chi vuole un suo diritto, l'abbracciai stretta a me, cercando di baciarla sulla bocca. Ma essa fu pronta a sottrarsi al mio bacio, torcendo il capo indietro febbrilmente, e ripeté: «No, no!» in una sorta di selvaggia invocazione d'aiuto, come se là nella stanza, oltre all'impaurito, inerme Carminiello, vi fosse qualcuno che potesse soccorrerla. Indi prese a difendersi da me, lottando coi ginocchi, coi gomiti, con i pugni, perfino con le unghie e con i denti. Una belva del deserto per uccidermi non avrebbe potuto sviluppare tanta ferocia quanta ne usò lei per rifiutarmi un bacio. Allora il mio amore si convertì in odio, e prima di lasciarla senza averla baciata, con le mani rabbiose mi sfogai a malmenare alla cieca le sue guance riverse, il suo collo ed i suoi capelli, finché, con uno stupore attonito, fatto di strana innocenza più che di rimorso, vidi fra la confusione dei suoi ricci il suo piccolo orecchio rosa macchiarsi di qualche goccia di sangue. Della mia collera inconsulta le avevo dato un violento strappo all'orecchino, così da sganciarne il fermaglio che le aveva un poco lacerato il lobo, e lasciandola andare mi trovai fra le dita la povera preda di quel cerchietto d'oro. Intanto udivo come in sogno il pianto del fratellastro, il quale certo era convinto che io volessi ammazzargli la madre, e vidi lei che, addossandosi al guaglione tutta smorta, lo teneva per la veste affinché non rischiasse di cadere in terra. Mi pare che ella neppure si lamentasse, tanto era sbigottita, e mi fissava con i grandi occhi spalancati, deboli e doloranti, come se aspettasse da me qualche nuovo orrore. Io le buttai ai piedi il suo orecchino. «Infame! Assassina!» le gridai. «Non aver paura, non ti bacerò mai più!» E correndo fuori dalla camera soggiunsi: «Addio per sempre! È tutto finito!» Ella era rimasta ferma, appoggiata al letto senza una parola. Ma come fui sul pianerottolo delle scale, la udii che dalla soglia della camera mi gridava: «Artù! Artù! Ma dove vai?» piena di spavento. Di nuovo, mentre attraversavo l'androne, mi raggiunse la sua voce che dal capo delle scale aveva ripreso a chiamare con affanno: «Dove vai? Artù!» confusa col battito dei suoi zoccoli che scendevano i primi gradini e con i balbetti di Carmine che le stava in braccio. Ma di lì a un attimo ero già nella via e le voci della casa si spegnevano dietro di me con la distanza come suoni di un altro mondo. Non sapevo dove precisamente fuggissi. Non avevo nessun amico sull'isola e per di più nella furia avevo trascurato di rifornirmi di soldi, abbandonando tutto il mio capitale in camera mia. Inoltre, se si toglie quel pane, cioccolata e frutta della sera avanti, ero digiuno da un giorno e mezzo, e anche a ciò si doveva, certo, il bizzarro senso di realtà che mi trasportava e che alleggeriva un poco la mia angoscia. Con una risolutezza senza rimedio, sapevo che per me, fra poco, l'isola apparterrebbe al passato. Ormai, per quella giornata, non c'erano più piroscafi in partenza verso il continente, ma io non mi curavo di sapere con esattezza come e quando me ne sarei andato via. Ciò che per il momento chiedevo era solo di rintanarmi per un poco in qualche angolo deserto dell'isola dove nascondere la mia solitudine lacerante. E così, mi dicevo con amarezza, si conclude il giorno della festa mia. When I'm floating in the water, and your eyes are lilies all around. When I'm lying sweetly in my bed, the sun plays crystal with my eyes. Then I stop, my world is stars crying for home. The limbs stop weeping for home. When I'm peeping in a parlor of trees and leaves winking all around, I'm home. My heart sobs in my veins. The brains, they play the softest games. Fingers kiss the string, mouth takes the blade of Everglade. No. Attraversai la piazza di Cristo Pescatore, poi la Marina Grande, lasciandomi indietro il molo. E pur senza una meta precisa, cercando luoghi disabitati e solitari, mi avviai a sinistra, verso l'ultima piccola riviera grigia, che su uno sfondo di rocce terrose chiude l'isola da quella parte. Sulla spianata che s'apre davanti alla lingua del faro, tutta ingombra come un arsenale di barche in secca in riparazione, alcune ragazzette paesane giocavano a saltare su dei riquadri disegnati in terra col gesso, e io, nel mio brutale passaggio di là, quasi investii una saltatrice, ma senza badare alle proteste sue e delle compagne, m'allontanai verso la riviera. Là, dentro le rocce dello sfondo, sono scavate diverse grotte naturali. Due o tre di queste sono state adibite a depositi di attrezzi, remi, eccetera, da alcuni proprietari di barche. Costoro pagano per esse un affitto al comune e le hanno provviste all'ingresso di robusti usci di tavole tenuti per solito ben chiusi a chiave. Ma andando lungo la riviera, io m'avvidi che uno di questi usci era aperto. Forse il locatario della grotta aveva lasciato l'isola o quel vano era in disuso. Nell'interno, infatti, non c'era altro che un ammasso di vecchi cordami quasi marciti e qualche barattolo di colla coperto di muffa. Ero capitato su quella riviera, si può dire, per caso. E il caso mi aiutava. Quella stanzetta abbandonata era proprio ciò che ci voleva per me. Vi entrai e ne accostai l'uscio, il quale, dilatato dalle intemperie, si incastrò perfettamente nel suo riquadro. Così che, a vederlo da fuori, appariva senza dubbio chiuso a chiave come gli altri. Per meglio assicurarlo dal vento, io lo barricai con quel mucchio di cordami sul quale mi buttai disteso. E là, ignorato da tutti su quel giaciglio, mi sentii libero e solo come un randagio sciagurato. Non mi davo pensiero del mio destino, neppure di quello delle prossime ore, come non appartenesse a me, ma a qualcun altro che io non conoscevo ancora e che non mi importava molto di conoscere. E non odiavo più mio padre, non amavo più Nunz. Al posto dei dolori drammatici che fino a poco prima mi avevano agitato, provavo una tristezza informe, senza più sentimenti per nessuno. Il vento aveva voltato allo scirocco e faceva un tempo tiepido, burrascoso e scuro. Le sconnessure dell'uscio di tavole lasciavano entrare nella grotta un barlume di luce torbida, mescolato all'odore salmastro e pesante dell'aria. La piccola riviera in quella stagione era deserta come l'ultimo confine del mondo, e per qualche minuto non mi giunse nessun altro rumore se non il fracasso del mare agitato dal vento africano. Ma di lì a poco, fra questo fracasso, udii avvicinarsi nel vento la medesima voce che al momento della mia fuga m'aveva inseguito fin nell'androne e che seguitava a gridare, rotta dalla corsa e dall'affanno: «Arturo! Artù!» La matrigna evidentemente aveva tardato appena il tempo di mettere giù Carmine al sicuro in qualche posto e subito era corsa dietro di me alla mia ricerca. Da qualcuno che mi aveva veduto passare e per ultimo dalle ragazzine che giocavano col gesso, doveva essere stata informata della direzione che io avevo presa. Ma nessuno mi aveva veduto entrare nella grotta e io, abbastanza sicuro del mio nascondiglio, mi sollevai dal mio mucchio di cordami e, accovacciato dietro l'uscio, spiai fuori, di là, fra le sconnessure delle tavole. Nunziata oltrepassò le grotte deposito senza fermarsi, poiché trattandosi di locali privati e regolarmente chiusi, non considerava che io potessi trovarmi là. Corse la spiaggia fino all'ultima barriera di rocce, poi ne tornò indietro, più convulsa, poi rifece di nuovo lo stesso tratto. E da un momento all'altro si dette pure a tempestare con i pugni gli usci delle grotte. Ma certo era solo la sua violenza che si sfogava contro quel legno, senza nessuna speranza vera. Nel disordine forse innato dei suoi colpi si avvertiva la sua certezza di picchiare a vuoto. Mi parve anche di udire che tentava, con le sue manucce, di forzare l'uscio della grotta prossima alla mia. Subito però desistette da una simile impresa, che doveva sembrarle assurda e vana, e si rimise per la riviera, avanti e indietro, come un'assassina disperata. Correva urlando «Artù! Artù!» in tutte le direzioni, con una nuova voce strana e carnale di acutezza lacerante, e lasciando che il vento le trascinasse la veste senza nessun pudore. Il suo sciallone nero le era sceso dal capo, scoprendo le ricci tutti scarmigliati e strappati dopo la lotta avuta con me. E quando correva contro vento, i capelli le coprivano la faccia, le entravano in bocca, soffocandole i gridi. Ogni tanto rallentava i passi, coi ginocchi che le si piegavano, e le sue labbra, che dai troppi gridi si erano fatte livide e quasi gonfie, si rilasciavano in una sprezza brutale e disanimata. In pochi minuti da che ci eravamo lasciati a casa, pareva essersi sviluppata in una donna di 30 anni e aver cambiato d'un tratto la sua anima onesta con l'anima d'una peccatrice. Dalla sua presente bruttezza devastata e terrea di donna anziana emanava uno splendore pieno di barbarie e di dolcezza, come se la sua anima, parlando, implorasse: «Ah, Arturo! Non essere morto, abbi pietà di una povera amante. Ricomparisci vivo, io qua stesso, buttata su questi sassi, non solo baci ti vorrò dare, ma tutto quello che vuoi». Ma io, con un'aridità sconsolata e crudele, pensai spiandola: «Vattene, oramai è finita. Io non ho più amore per te, né odio per altri. Non ho sentimenti per nessuno». E mi ridistesi giù, con le braccia sotto la testa, sperando che presto se ne riandasse e mi lasciasse solo. per un poco, la udì che si aggirava sulla spiaggia, seguitando a ripetere «Artù! Artù!» Ma adesso piano, in una specie di balbettio sconsolato. Alla fine, quella misera voce s'allontanò lungo la via del ritorno, verso il paese, e la spiaggia tornò vuota. Allora io quasi provai sul serio il sentimento d'essere ridotto senza vita giù in fondo al mare come lei tanto temeva. Appena essa fu andata via, mi giunse, in mezzo al vento, il fischio del piroscafo delle tre che entrava in porto. Ma ciò per me non significava più niente. Io non aspettavo più nessuno. La certezza che mio padre non sarebbe affatto ritornato per la mia festa non mi causava d'altronde più nessun dolore. Anzi, peggio, ero persuaso che la sua venuta non mi avrebbe più rallegrato ormai. Fra un'ora o poco più farà sera, pensai con soddisfazione, e nessuno più verrà passare su questa spiaggia dimenticata. Una notte senza durata né coscienza era forse l'unica tollerabile conclusione di questo giorno. Col passare dei minuti sentivo i miei muscoli, nell'immobilità, intorpidirsi e i pensieri incantarsi, quasi mi andassi trasformando in una gigantesca tartaruga di mare dentro la sua corazza di pietra nera. Il secondo segnale del piroscafo, che dopo la breve fermata lasciava il porto, mi giunse come da secoli di distanza, da chissà quali novelle favolose che non volevo più ascoltare. Vicino a me, alla porta della mia stanzetta usurpata, si mischiavano i rumori del vento, delle ondate, e questo coro naturale, senza nessuna voce umana, discuteva certo il mio destino, con un linguaggio incomprensibile come la morte. Ed ecco, fu in quel punto, il segnale di partenza del piroscafo s'era da poco spento in lontananza, che udii di nuovo avanzare dal fondo della riviera una voce, non di donna, virile questa volta, e non agitata, anzi sicura e quasi gaia, la quale chiamava il nome Arturo. Non era il timbro di voce di mio padre, e neanche il passo, rapido, di pesanti scarponi, non era il suo di certo. Mi alzai come già prima a spiare di fra le tavole, e là fuori, a pochi metri da me, vidi passare un soldato. Era un bruno riccio, di statura piuttosto piccola che mezzana, col viso tondo, un paio di baffetti neri e occhi scuri, animati, che esploravano all'intorno. Lì per lì non mi sembrò di conoscerlo. Ma tuttavia, nella sua figura, avvertii subito qualcosa di curiosamente familiare che mi dette una palpitazione di sorpresa e di mistero. Gridai di dietro il mio uscio. «Oh, chi Arturo cerchi?» rispose. «È Arturo Gerace!» Allora aprì l'uscio. «Arturo Gerace!» dissi. «Sono io!» A ciò gli esclamò. «Arturo!» accorrendo con una lampante contentezza e senza tante storie mi baciò su ambedue le gote. «Tu mica mi riconosci a me, soggiunse, e in così dire fra un sorriso allusivo e misterioso mi mostrò, all'anulare della sua destra, un anello d'argento il quale recava incastonato un cameo raffigurante la testa della dea Minerva. Iaia Forte ha letto L'isola di Arturo di Elsa Morante, realizzazione tecnica di Lorenzo Grego, a cura di Fabiana Carubolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it.